La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta alle 16.33 primi 12 secondi qui dagli studi della radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, vi ricordo sempre l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, perché è scrivendo a questi indirizzi che nascono moltissime delle puntate. Anche la puntata di oggi è il seguito in realtà di una puntata che qualche tempo fa, devo dire con grandissimo successo per messaggi che abbiamo ottenuto, abbiamo realizzato, perché ci si propose una imprenditrice con la sua storia, trasformata poi anche in un libro. L'imprenditrice si chiama Seranella Antoniazzi, il libro, forse qualcuno di voi lo ricorda, è Io non voglio fallire, ed è la storia di una giovane imprenditrice che è stata giovanissima, insomma, ereditare insieme al fratello la società, e in questi anni di crisi va alle corde questa volta, nel loro caso, non solo e non tanto per le tasse da pagare o per i ritardi nel pagamento dei fornitori pubblici, ma perché si trovano in ginocchio per una furbizia, diciamo, di un grande committente privato per quale lavoravano, cioè per scorrettezze tra privati, e vanno in ginocchio, ma come dice il titolo del libro di Seranella, Io non voglio fallire, stringono i denti insieme ai dipendenti, vanno avanti e iniziano a fare di questa storia una storia anche pubblica. Stiamo parlando del Veneto, è un'azienda nel concordiese, e intorno alla storia di Io non voglio fallire di Seranella Antoniazzi è nato una specie di fenomeno di catalisi, di convergenza di iniziative, di imprese artigiane, di piccolissime e piccole imprese unite spalla a spalla nella denuncia delle norme e dei comportamenti che ancora consentono a privati furbi di mettere in ginocchio i privati onesti. Ed è uno degli aspetti, forse uno dei meno toccati in questi anni di crisi, in cui tante volte abbiamo parlato dei difetti dello Stato, ma c'è anche poi il punto dei comportamenti impropri tra privati che a propria volta determinano fallimenti e chiusure. Allora, lo sviluppo dopo la nostra trasmissione, dopo la presentazione del libro, ha un aspetto istituzionale da una parte, pubblico. Per esempio, lunedì prossimo, il 20 luglio, chi fosse interessato, nel pomeriggio dalle 2:30 alle 5 del pomeriggio all'Università Cattolica, insieme a Seranella Antoniazzi, l'Alta Scuola Imprese e Società dell'Università Cattolica ha organizzato un convegno esattamente su alcuni di questi aspetti delle norme da cambiare, per esempio l'abuso dei concordati di comodo, no? Che mettono in ginocchio altri privati per la decisione di utilizzare del concordato di comodo da parte di altri privati. Quindi convegno lunedì, e quindi titolari di cattedra, magistrati delle sezioni fallimentari, politici che dovranno dare delle risposte intorno alla loro voglia di cambiare alcune delle norme che creano problemi crescenti a tante piccole imprese, e poi anche tante iniziative pubbliche per rilanciare questo tema. E noi abbiamo deciso di tornarci sopra invitando oggi pomeriggio a parlarne uno di coloro che con la sua associazione in Veneto, è il presidente del Confartigianato di San Donà, in questi anni moltissimo si è dato da fare, prima anche che Seranella Antoniazzi scrivesse il suo libro, ed è uno dei più pugnaci e combattivi, insomma, sostenitori del fatto che, così come lo Stato deve imparare dalla crisi a comportarsi meglio, così anche però i privati devono non fare i furbi tra loro, per così dire, e soprattutto bisogna cambiare le norme che a oggi, dando una risposta alla crisi, perché la modifica delle procedure per il concordato e fallimentari nasceva come risposta alla crisi, ma in realtà nella prassi è diventata una maniera di comodo per creare problemi ad altri, per trasferire il problema ad altri privati. Allora è con noi per parlare oggi pomeriggio, e naturalmente l'appello a tutti, piccoli imprenditori, artigiani che fossero vittime di furbizie improprie e indegne tra privati, è il momento giusto per telefonarci e raccontarci la vostra storia chiamando l'800 24 00 24. Ma per parlarne con noi, intanto oggi pomeriggio c'è Ildebrando Lava, che è appunto il presidente della Confartigianato di San Donà. Buon pomeriggio e grazie, Lava. Sì, buon pomeriggio a lei, grazie dell'invito. Allora, viva ovviamente Stranella Antoniazzi, però al di là di questo, intorno a questa storia dei concordati di comodo, per così dire, secondo lei la politica ha capito davvero quanto il fenomeno è grave e diffuso? Ma secondo il nostro punto di vista assolutamente no, cioè nel senso che già il fatto stesso che si stia lavorando in maniera importante per regolamentare le regole concorsuali e fallimentari la dice lunga sull'aver capito o meno il problema. Il problema non è gestire i concordati e i fallimenti, noi non vogliamo arrivare ai concordati e fallimenti. Vogliamo semplicemente lavorare in santa pace e avere certezza della qualità dei nostri pagamenti, perché non è una furbizia non pagarsi, significa distruggere il tessuto sociale, trascinare nel baratro decine e decine e centinaia di aziende con tutto quello che ne consegue per i propri dipendenti, eccetera. A suo tempo avevamo lo Stato, che è stato un gran buon insegnante, che si pagava a distanza di un anno e mezzo. Naturalmente però, un gran buon insegnante lo dice per paradosso ironico, insomma. Sì, sì, tranquillamente sì. Ci ha insegnato come fare, quindi ritardare i pagamenti abbiamo visto che non era poi così difficile. Però lo Stato, abbiamo certezza matematica che prima o poi si paga. Abbiamo visto anche... Ne approfitto, visto che ha citato il tema dei mancati pagamenti pubblici. Nel frattempo, con gli interventi governativi dell'ultimo anno e mezzo, da voi, nella vostra realtà territoriale, il problema si è radicalmente risolto e non esiste più, o semplicemente comunque c'è stata un'apprezzabile diminuzione dei tempi, accelerazione dei tempi di pagamento pubblico? Le cose come stanno lì da voi in Veneto? Diciamo che c'è un'apprezzabile accelerazione dei tempi. Okay. Abbiamo delle ASL che pagavano un anno e mezzo e adesso a 90 giorni pagano regolarmente. È già una bella differenza. Sì, direi proprio di sì. Però nel frattempo ci hanno fatto scuola. Allora, il problema vero, che è lo sport nazionale che sta distruggendo il tessuto sociale, è appunto i rapporti non tanto fra privati, è proprio nei rapporti fra imprese. Nel momento in cui tu riesci a non pagare un'altra impresa, ti senti anche gratificato. Una volta, per assurdo, quando qualcuno diceva io non ho debiti con nessuno, era da veramente da invidiare, da dire bravo, così si fa. Adesso se riesci a dire io ho fregato quello, non ho pagato l'altro, quest'altro deve arrivare con i Marines per portarsi a casa i suoi soldi, sei l'italiano per eccellenza. Allora noi diciamo, la politica probabilmente... Aspetti, la interrompo per spiegare a chi è in ascolto. Questo fenomeno diffusosi nella crisi, nei pagamenti tra imprese, è un fenomeno che dipende anche o soprattutto, dica lei, dalle dimensioni delle imprese, cioè sono i grandi che ne approfittano rispetto ai piccoli, oppure prescinde da questo fatto ed è diffuso, per così dire, per un po' per sopravvivenza e un po' per approfittarne? Allora, un po' è per approfittarne senza ombra di dubbio, perché abbiamo esempi chiarissimi di gente che ha disponibilità economica e non paga trovando qualsiasi tipo di pretesto. Però io lancerei un altro bel segnale, che è questo qua. Allora, andiamo un attimo negli appalti pubblici. Una volta si vincevano con una media e quindi la cosa era abbastanza sostenibile. Adesso appalti pubblici sono al massimo ribasso e tutte quante le attività, di qualsiasi preventivo si vada a fare, tutti mirano a spendere il meno possibile. Cos'è che sta succedendo? Soprattutto le grosse realtà portano a casa i lavori sotto costo e quindi sono stracarichi di lavoro. Mascherano la loro insolvenza costringendo i vari lavoratori, vari artigiani, vari subappaltatori a ricevere il loro compenso attraverso bonifici. Quindi per la banca non ha nessun segnale di tensioni, perché le ricevute bancarie una qualche traccia la lascia, non eliminandole totalmente, la traccia sparisce. Quindi per la banca questi qua sono, sotto il punto di vista rating, eroi nazionali. In realtà tantissimi, io ne conosco tanti, con la storia di mascherar con appunto i pagamenti attraverso bonifico, portano a casa un sacco di lavoro, inducono il proprio collaboratore artigiano o chi che sia a pagamenti sempre più lunghi, fino a che a un certo punto si innesca un meccanismo perverso, che è questo. Allora, normalmente noi siamo tutti contenti, soprattutto i piccolini, di portare a casa più lavoro possibile. Il pagamento per noi è una cosa che dovrebbe essere già intrinseca nel nostro lavoro, e siamo fiduciosi che arriva, però poi non arriva. Allora fanno un'operazione di questo genere qua: lavori sotto costo, pagamenti sempre più lunghi, arrivano a costringere le aziende piccoline a non pagare più contributi, non pagare più tutti quelli che sono gli oneri previdenziali e quant'altro. Quindi abbiamo il DURC, che è il documento, certo, di regolabilità contributiva, che va a farsi friggere. La legge dice: tu appaltatore puoi pagare il subappaltatore purché abbia il DURC in regola, se no non lo paghi. Quindi ti costringono alle corde pian pianino, drogandoti con tanto lavoro e importante lavoro che poi non ti pagano, e ti mettono a capo tecnico in quel modo là. Oppure mirano, come ha fatto quella nostra amica Serenella, a proprio non pagarti, esatto, non mi interessa niente di DURC o non DURC, e poi con la storia dei famigerati concordati in bianco, abbiamo visto gente alla quale abbiamo proposto di ricevere compenso pari all'1, 1,5%. Cioè, ragazzi, è assolutamente inaccettabile, non si può. Allora, noi diciamo il concordato e la legge fallimentare va benissimo, mettiamo pure delle regole nuove, più moderne, tutto quello che volete, ma non è quello il problema. Il problema dovete mettere leggi, regole tali che ci consentano di avere i nostri pagamenti, coinvolgendo lo Stato, eccetera. Per esempio, per darvi un'idea, aspetti solo una cosa, perché lei non deve dare per scontato, ovviamente, che chi ci ascolta abbia presente che con il concordato preventivo accelerato, per così dire, che è entrato nel nostro ordinamento nella crisi, appunto, non essendoci una percentuale minima di pagamento dei creditori, questa è la modalità attraverso la quale aziende private che non sono affatto in condizioni di provvedimento concordatario accendono questa procedura, e attraverso questa procedura si arriva in tempi rapidissimi a proposte di liquidazione dei creditori che sono appunto a percentuali come quelle che lei ha detto, cioè percentuali che fanno morire a quel punto l'impresa che ha lavorato, perché capite che, cari ascoltatori, che stiamo parlando di essere pagati l'1-2% rispetto a quello che hai fatto, cioè niente, come è evidente. Quindi il problema in questo caso è quantomeno introdurre nel concordato preventivo una soglia minima di liquidazione dei creditori, ma quando si dice minima deve essere il 20-30%, perché altrimenti, ripeto, la sistematicità, infatti, che si è rilevata nelle sezioni fallimentari, soprattutto nel nord, ma insomma in tutta Italia, è stata di procedure che in moltissimi casi erano fatte apposta per non pagare, ma non perché le aziende che accedevano a queste procedure erano nelle condizioni vere di considerare l'alternativa alla chiusura. Il problema è che fai chiudere tutti quelli sotto. Adesso spiego, spero di aver spiegato a che casa, in che cosa consiste questo problema dei concordati preventivi. È così anche secondo lei, Lava? Ma non fa una piega, è assolutamente così. Quindi innescano una spirale perversa che trascina nel baratro altri, e altri trascineranno altri. Ah, certo. Se questo è creare sviluppo, è creare lavoro e creare prospettive per il futuro, credo che qualche margine di miglioramento ci sia. Allora, quindi, aspetti, la interrompo perché tra 60 secondi torniamo a dare la parola. Adesso c'è l'informazione sulle strade. La la versione di Oscar. Eccoci qua, è tornato in diretta alle 16.48, primi 56 secondi, puntata a seguire dopo un po' di tempo rispetto a quella che dedichiamo al libro Io non voglio fallire di Sranella Antoniazzi. È con noi un altro protagonista in Veneto in tutti questi anni di crisi della lotta di resistenza, per così dire, degli artigiani e di tantissime piccole imprese, il presidente di Confartigianato di San Donà, Ildebrando Lava. Abbiamo tentato di spiegarvi come le furbizie tra privati nel mancato pagamento siano diventate un'altra piaga nell'Italia di questi anni, un intervento sulle procedure concorsuali fallimentari in questi anni di crisi che non ha messo le giuste soglie sta diventando, è diventato nel tempo anche una modalità per non pagare e costringere a chiudere chi sta sotto, cioè chi ha lavorato per te da parte di altri privati, e si tratta di mettere il più rapidamente possibile mano a questa legge. Un po' di opinioni vostre con gli sms. C'è chi dice, per esempio Alberto, che col 182 bis, cioè la norma di cui stiamo parlando, soprattutto si è impedito di far fallire alle COP, e quindi c'è stata anche un po' di finalità politica in questo tipo di misura. Anna scrive invece che le aziende grandi usano la sua esperienza ai piccoli per finanziarsi invece di rivolgersi alle banche. José da Bologna ci dice che l'80% dei mancati pagamenti, per quello che lo riguarda e conosce, sono per furbizia dei creditori e non per ragioni di assoluta necessità. E poi c'è un agente di commercio che oggi ci dice: ho incassato 500 euro di venduto a ottobre 2014, quindi fate i vostri conti. Allora, rapidamente sentiamo anche qualche telefonata che poi facciamo commentare al presidente di Confartigianato di San Donà, che è con noi. Cominciamo con Ivano da Modena. Prego Ivano. Sì, buonasera Giannino. È molto semplice, avevo acceso la TV, sto sentendo una questione che a me sta molto a cuore, che è questa dei concordati. Sì. E quindi io ricopro anche un ruolo istituzionale, per l'amor di Dio, molto piccolo, presidente dei mugnai italiani aderente a Confindustria Italmopa. Io ho fatto una battaglia, ma vedo che non c'è niente, almeno nell'ambito di Federalimentare e anche di Confindustria, ma vedo che tutti mi danno ragione, ma non cambia niente. La storia del concordato di continuità è una vergogna. Tutti lo sanno. Esatto. E provo, esprimo un concetto, perché poi qui qualcuno vuol giustificare questa cosa con argomentazioni complicate. L'argomentazione è molto semplice, e voglio dire, di fare l'imprenditore non lo obbliga nessuno. Fare l'imprenditore vuol dire fare una competizione. Nella competizione c'è chi perde e c'è chi vince, perché se non c'è mai chi vince e non perde nessuno, il mercato non si pulisce mai, cioè non c'è neanche soddisfazione. Con questo strumento oggi ci troviamo nelle condizioni che, soprattutto con il concordato di continuità, un mio concorrente o anch'io, un concorrente che sbaglia le strategie, che fa le cose fatte male, a un certo punto zera la posizione debitoria e quindi drena ricchezza al paese, perché se io subisco un concordato di continuità e non mi viene pagato, sono soldi che non investo più, che non riesco nemmeno più a, come devo dire, no, a crescere come azienda. E infatti il problema è diventato di massa, Ivano, questo è il punto. Cioè noi abbiamo applicato ai privati una specie di soluzione che neghiamo alla Grecia nel suo debito pubblico, con la differenza che, non tutelando a quel punto i creditori privati, cioè i committenti per cui ha lavorato chi sta sotto a quell'impresa, noi avvantaggiamo chi ha sbagliato le strategie o semplicemente chi fa i furbi, e però mettiamo nell'angolo chi sta sotto e ha lavorato. Perché Ivano, secondo lei, non si fa un passo concreto per affrontare questo problema? È caduta la società della Chiesa cattocomunista e cattolica, che è rispettabilissima, per cui bisogna aiutare tutti. Una delle giustificazioni che mi ha dato un politico è stato, stia a sentire, è stato questo: diciamo, così salvaguardiamo l'occupazione. La cazzata più grossa del mondo, perché se io riesco a conquistare del mercato perché sono più bravo del mio concorrente, vorrà dire che faccio investimenti e che assumo. Il concetto che l'imprenditore con i soldi si fa la barca, metti i soldi, quindi secondo lei c'è una questione, insomma, di identità culturale sotto il fatto. Resta il fatto che però chiudiamo gli occhi sui piccoli che stanno sotto, quindi è proprio un problema che non capirò mai. Greco da Modena, prego. Salve, Salve, buonasera. Io sono un artigiano. Sì. Ho adottato da qualche anno una politica un po' particolare, 50% di acconto. La cosa curiosa è che i primi detrattori di questa mia politica, quando parlo, sono i miei colleghi. Perché? Gli artigiani come me, che dicono: come ti permetti? Io e allora vorrei capire, voglio dire, se uno vuole fare un lavoro, qualunque esso sia, dovrà mettersi in condizione di poter onorare. Mi sembra giusto quello che dici. Mi sembra. Eppure io la adotto con degli istituti pubblici, ospedali privati, io l'ho chiesto, mi hanno detto di sì. E ha detto di sì. Allora sentiamo cosa pensa il Brando Lava, il presidente del Confartigianato di San Donà, di questa prassi del nostro amico che ci ha chiamato da Modena. Potrebbe servire estendere la pratica degli acconti pagati a lavoro ordinato? Ma potrebbe servire se fosse una regola imposta, esatto. Perché se no il signore qua probabilmente è fortunato e riesce ad avere clienti degni di tal nome, eccetera. Però posso garantire che anche quando è stato prospettato l'aspetto del pagamento a 60 giorni, puntini, salvo accordi diversi, ecco. Sono tutti accordi diversi. Ecco, quindi diciamo che non dobbiamo fossilizzarci sul singolo caso, sulla singola soluzione, ognuno ha la propria per cercare di sopravvivere, anche perché essere sopravvissuti in questo periodo qua è quasi eroico. Certo. Noi abbiamo fatto delle proposte diverse, cioè nel senso che dato sto sport nazionale, diciamo, oltre che a lamentarci bisogna proporre anche delle soluzioni che possono andare bene. Per darvi l'idea, una proposta fatta ancora un anno e mezzo fa alla politica a destra, a sinistra e centro, che non hanno capito niente, era nei rapporti fra aziende rendere la fattura, finché non è pagata, documento fiscalmente inutile della serie. Non ti scarichi l'IVA finché non l'hai pagata, esatto. E non ti scarichi le tasse e viceversa per chi ha lavorato. Significherebbe ridurre la tensione finanziaria rispetto all'intervento che non viene pagato perlomeno del 50%, esatto. Significa ossigeno. Allora, inciso, poiché ha toccato questo punto, ricordo ai nostri ascoltatori che la promessa ufficiale c'era del governo di far intervenire attraverso i decreti di attuazione della delega fiscale quantomeno il primo passo della tassazione per cassa e non per competenza, come sta appunto ricordando il Brando Lava con le sue proposte un anno e mezzo fa, quantomeno a chi era ricadeva nella tassazione con regime dei minimi, che come sapete purtroppo poi quest'anno il governo ha devastantemente modificato. All'inizio il governo l'aveva promessa addirittura per tutte le imprese in contabilità semplificata, forse dimenticandosi che sono la stragrande maggioranza delle piccole imprese italiane, poi aveva detto quantomeno in chi sta nel regime dei minimi. Risultato: non lo ha fatto né per gli uni né per gli altri. Principio fondamentale: io ti pago l'IVA se ho incassato la fattura. Invece oggi noi, tutti noi, anch'io, paghiamo l'IVA senza essere pagati e funzioniamo da banca per lo Stato. Mi scusi se l'ho interrotta, ma mi incazzo anch'io su queste cose qua. Allora, e questa proposta niente, non si è vista. Poi altre La politica ci ha detto che sostanzialmente ha già inventato l'IVA per cassa, che non la applica nessuno, tanti sono i lacci e lacciuoli che hanno messo, e comunque non è quello che ci serve, perché alla fine dell'anno comunque la partita IVA, la partita nel senso il conto dell'IVA in sospeso la devi comunque chiudere, non è quello che ci serve. Allora, io sono abbastanza agguerrito e non mi piace chiacchierare per nulla, eccetera. E quindi noi non possiamo che augurarci, ripeto, che qualcuna di queste altre proposte, reinviteremo il Brando Lava, come vedete, perché questo è un filone da seguire. Purtroppo il tempo è finito, ma io vi do appuntamento domani ai Conti della Belva dalle 10 alle 12 per parlare dei tanti posti che le imprese chiedono e che non vengono coperti. Non è che stiamo toppando la riforma della scuola, la mia risposta è sì, e poi anche di tante altre cose. Domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva.